Le piace sempre ritmare. Dolce frasi e tenerezze non ama più. Preferisce il boogie boogie col dito in su. Modernismo, che felicità, meglio non parlare. L'amore di moda si fa così a tempo di swing. Dolci frasi e tenerezze non ama più. Preferisce il boogie boogie col dito in su. Modernismo, che felicità, meglio non parlar. L'amore di moda si fa così a tempo di swing.